per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. È il mese di giugno, la prima puntata che cade in questo mese bellissimo, biondo, mese doppio, mese dei gemelli, sesto mese dell'anno, anno 2016, mese che apre le porte all'estate, mese che ci vede informati sui fatti, cara Elisa, buongiorno. Ma buongiorno, ben sintonizzati, questi sono i 103.1 e questo è sempre lo special Twice e thanks God it's Friday. Finalmente siamo alle porte del weekend, possiamo rilassarci, prendere un po' di fiato, goderci la pioggia che ci accompagnerà in tutto il fantastico weekend. Ma noi oggi parleremo d'altro, proprio per distrarvi da questo. Sì, e poi volevo aggiungere che, beh, quale migliore occasione col brutto tempo avere un amico perfetto che ci tiene compagnia, come un libro bellissimo, no? Un libro, esatto, che ci può accompagnare per distrarci e farci volare in mondi paralleli, in modo da appunto farci godere ciò che non possiamo vivere nel presente, vivere altri mondi. E visto che siamo allo Special Twice, insomma la coppia di Lunghi qui ci sta in tutta la sua grandezza, in tutti i 4 metri in 2, allora perché non sfruttare proprio questa tematica? Ed oggi finalmente i nostri ospiti tornano dopo qualche settimana di vacante, no? Sì, non sanno quello che gli aspetta, fra l'altro, perché sì, noi arriviamo, sì, siamo sempre un po' stanchi noi a fine settimana, no? Poi veniamo da una settimana strana perché c'è stato questa mezza vacanzina col 2 giugno che ha un po' interrotto il ritmo normale, e riprendiamo con le dirette, e una diretta che dovete fare voi, cari ospiti. Cari studio, ospiti, studio, sì. studio gremito. Oggi dobbiamo farci sempre più piccoli, e tra l'altro, William, abbiamo anche, insomma, non solo oneri ma anche onori, perché abbiamo qui coloro che hanno tutte le risposte, speriamo di fare le domande giuste. No, ma infatti adesso cediamo il microfono, intanto qualche precisazione: la redazione culturale di Radio Città Fujiko può vantare una formazione spettacolare per quanto riguarda la letteratura, un grande valore aggiunto l'anno scorso, non è per paggeria che lo dico, ma chiaramente con cognizione dei fatti, l'anno scorso ho avuto l'onore di essere ospite a 42 La Risposta, ragazzi, quest'anno è la vostra volta. Salve a tutti, buona giornata. E intanto presentiamo. Abbiamo qui salutato. Allora, intanto abbiamo qui Sara, giusto? Giusto. Sara di 42. Beh, 42 La Risposta. 42 La Risposta, non anni, mi raccomando. Invece qui al suo fianco abbiamo e Valentina, sempre insomma di 42. Bene, non hanno anni, 42. Sempre però la risposta, esatto. Quello sono io che ho già passato da un pezzo. Ecco, comunque, esatto. Concludiamo la formazione del 3 su 5, poi salutiamo anche le momentaneamente assenti. Monica, sempre di 42. E poi abbiamo anche un altro format che quest'anno si è aggiunto, che è Salinger. Sì. O Salinger, come si pronuncia? Salinger, sì, anch'io facevo questo errore all'inizio, lo volevo fare più straniero, invece è semplice, Salinger, così. Perfetto, come lo leggiamo. Come sì. Lo leggiamo, perfetto, molte volte ci complichiamo la vita. Allora, detto ciò, intanto andiamo a dare qualche informazione. Format che va in onda ogni settimana, quando? Ogni martedì alle 13, su ovviamente Radio Città Fujiko, e in replica trasmettiamo anche su Radio Kairos, sempre il martedì alle 22. Perfetto, siete internazionali, bene, sì, questo sì. Onore al merito per questi contenuti veramente molto interessanti, quindi ogni volta una tematica, ogni volta un approfondimento, ogni volta rispecchiarsi nella letteratura con la quotidianità e per conoscere, per far sapere alle ascoltatrici e agli ascoltatori sempre argomenti importanti e percorsi particolari in ambito letterario. Oggi diamo un po' fuori di testa perché sì. Parlando del doppio possiamo sbizzarrirci sia a livello poi interiore, quindi dal dottor Jekyll e Mr. Hyde fino la parte magari del film Mattia Pascal che non sa più da che parte deve stare nella sua doppia personalità. Però sicuramente voi avrete avuto modo di portare il libro che più vi ha colpito su questa tematica. Per esempio tu, Sara, vedevo che prima sventolavi certo. Il libro che hai scelto. Sì, sono contentissima di parlarne perché è un libro che ho letto recentemente, un libro che mi è piaciuto moltissimo, e il libro si chiama Just Kids di Patti Smith. Poi magari dopo una prima presentazione anche degli altri testi, scambiamo qualche chiacchiera su questo certo. testo. Andiamo per ordine, intanto passiamo allora a Valentina, cosa hai portato? Beh, io ovviamente per fare onore a Simply Salinger, che è la trasmissione su Radio Città Fujiko, parlerei del doppio in Salinger, okay. Anche per uscire un po' dal libro, e sia in Holden sia in altri personaggi Salinger ha ricreato un po' il suo alter ego. Bene, allora concludiamo il terzetto, Monica? Allora, niente, io ho pensato al sosia. Niente. Io non ho fatto niente, sto qua a guardare. Così, sì, mi godo lo spettacolo. Il sosia di Dostoevsky, un grandissimo classico, è uno dei primi romanzi dell'età moderna e contemporanea in cui emerge la tematica del doppio. Io faccio il tifo per te, lo sai, sono un grande amante della letteratura russa, quindi sì, abbiamo anche qualcosa legato alle ultime uscite, se c'è tempo ne parleremo anche nella parte conclusiva dello Special Twice. Due parole veloci, i due format, Special Salinger e 42 la risposta, la differenziazione me la dici tu? Allora, la differenza è che fondamentalmente Simply Salinger è una monografia, e prevalentemente sulle opere di Salinger, sulla vita di Salinger, mentre 42 la risposta, insomma, che già ormai sono due anni che va in onda, e la particolarità di abbinare un romanzo in cui emerge una particolare tematica della vita quotidiana a un cantante o a un gruppo che meglio si abbina alla tematica appunto che viene trattata. Un pochino vi abbiamo rubato l'idea col doppio, quindi in questo caso, vabbè, del resto siete le ospiti d'onore per questa puntata dello Special Twice. In realtà la colonna sonora è molto anarchica, io direi di andare a cominciare con la nostra musica e spaziamo, la nostra playlist. Spaziamo, come al solito. Spaziamo e spaziale soprattutto, perché devi sapere che facendo ordine nei CD saltano fuori delle meraviglie incredibili. Cade il muro di Berlino, tutti contenti, tutti felici, non sappiamo poi che adesso invece ne stiamo tirando su mille di muri, no? Vabbè, almeno la musica è stata sdoganata a 360 gradi in tutto il mondo. Cosa succede? Che oltre la cortina di ferro dei grandi gruppi funky e jazz stavano componendo, no? La faccia poca libertà, non si poteva suonare jazz. No, falso. Anzi, possiamo tranquillamente ascoltare Nelson Riche dalla Germania Est che ci propone questo Volcano Sauter. A fra poco. Thank you. Nelson Reed dall'ex Germania Est, parlando del doppio, appunto, come citavamo fuori onda. E bisogna mettere poi il famoso microfono dei fuori onda, Elisa. Sì, io ho questo sogno, creare un format. Pensa che questo è il mio sogno. I have a dream. Cosa vorrà Elisa nella vita? Niente, ficcare un microfono di nascosto mentre ci sono gli ospiti, così tutto ciò che va fuori onda noi ci facciamo un format e mandiamo il fuori onda, perché di solito noi chiacchieriamo nel fuori onda e vengono fuori cose più interessanti di quello che poi mandiamo. Hai capito? Infatti ha fatto una citazione andreottiana Monica, assolutamente. Io spesso la faccio la mattina durante la lettura delle prime pagine, quando Giulio Andreotti disse: le Germanie sono talmente belle che ne vorrei sempre due. Esatto, in particolare visto il brano che abbiamo appena mandato, e col senno di poi dicevamo appunto fuori onda che abbiamo visto com'è andata. È il doppio, anche nella playlist. Questo è merito di Monica, che è riuscita a trovare una realtà bivalente all'interno della nostra playlist un pochettino anarchica per quest'oggi. Iniziamo allora con l'aspetto letterario. Sì, perché questa dicotomia, questo doppio, quindi abbiamo detto Sara, tu l'hai visto in questo libro di Patti Smith. Sì, perché il libro è scritto da Patti Smith appunto nell'89, a partire dall'89, dopo la morte di Robert Mapplethorpe, ripercorre la loro vicenda di amicizia amorosa e soprattutto la loro formazione artistica. Quindi entrambi vengono raffigurati nel momento dell'adolescenza e della giovinezza, lo fa Patti Smith, e il libro è un bellissimo e vibrante di grandi emozioni. E il titolo Just Kids, fra l'altro, è un aneddoto interessante da raccontare. Robert Mapplethorpe e Patti Smith passeggiavano a Coney Island con questa bellissima malinconia del luogo, ed erano vestiti in maniera stravagante. Non erano ancora due artisti, erano invece due semplicissimi ragazzi che sarebbero diventati due grandi artisti, anche perché, lo scopriamo leggendo il libro, hanno sempre alimentato il loro demone, si sono sostenuti poi a vicenda. E incontrano due turisti che hanno una macchina fotografica e chiedono loro di scattare una foto. Ma proprio mentre il marito sta scattando, la moglie dice: no, they're just kids. E quindi regalano questa fotografia a Patti Smith, che quando si troverà a scrivere la storia della loro amicizia, chiamerà il libro proprio con questo titolo, e in copertina ci sarà la foto di questi due ragazzi giovanissimi, bohemien, un po' sì, stravaganti. E il libro è, come dicevo, la storia in parallelo di questi due giovanissimi, Patti e Robert, ma è anche un grandissimo affresco su un altro mondo, dato che anche inizialmente hai parlato di altri mondi, su un mondo in cui l'arte, forse, spero anche fuori, non so, di retorica, era davvero importante. Quando questi due ragazzi si trovavano a decidere se mangiare un hot dog o comprare un libro d'arte a pochi centesimi o pochi dollari al mercato delle pulci, spesso optavano per questa seconda opzione. Ci sono anche io e te, Elisa, spesso. Ecco, infatti qui volevo intervenire per nascondere queste, no, questa circonferenza invidiabile proprio, perché sempre. L'altro giorno eravamo, no, in il mercatino vicino alla stazione. Io ho detto, ci facciamo una grigliata, esatto, di cate, perché no. Perché poi lo fanno apposta, mettono tutti i libri e poi di fianco tutti gli stand per mangiare, così uno dice, no, se riesco a coniugare entrambe le cose, il doppio ritorna e riusciamo a saziare l'anima e anche la pancia. Intanto ringraziamo tantissimo per questa partenza per quanto riguarda il terzetto che abbiamo qui presente in diretta sui 103.1. Grazie Sara, bella grazie presentazione, a ma torneremo poi a parlarne, anche a leggere. Fra l'altro, vogliamo salutare anche il resto dello Starting Five? Sì, salutiamo Maria e Carol, che sono in questo momento impegnate ma presenti con lo spirito. Certo, soprattutto Carol, sai cosa ha detto di me una volta? Io sono convinto che Willy sul computer non vuole lasciarlo in giro perché probabilmente ha delle foto compromettenti del ministro Boschi. Addirittura! Ha detto una roba del genere a me, hai capito? Allora io penso di consegnarmi alla giustizia e dire: controllate, smentite, no, questa infatti, voce guarda, falsa. Al massimo si possono trovare delle foto in cui Willy ha finito la corsa e poi ci sono tutte le cartacce dei panini intorno a sé. Sì, quella massimo cosa che possiamo è la proprio cosa trovare. Più compromettente. Allora, si parlava di Patti Smith, io invece propongo, chi la conosce? Karen Krog. Chi la conosce? È una cantante che negli anni 60-70, verso la finire negli anni 60, in Scandinavia era valutatissima, grandissima cantante svedese. Raindrops, Raindrops è il brano che vi proponiamo, come due gocce di pioggia, quindi speriamo nel doppio rimaniamo. Siano solo due però, e non di più, due, due, due, due. The boys or girls, driving home one day, I was struck by a drop. A raindrop asked me to stop, calling all the boys who didn't care. Rain is everywhere. Once I thought the skies were in the air, that fire was warm, colored hair. Now I know the truth, all the silver and gold and all that water can hold leaves me with a scent of dying pain. Life is filled with rain. Rare groove, bello, psicologico, psicadelico. Un po' tutti e due. Non sapevo cosa scegliere. Era un po' impastato. Ma sì, va bene. Space Age Pop, tornando in diretta con questa cantante svedese, Karin Krog. Tornando in diretta, a questo punto continuiamo con gli approfondimenti per un'iniziale presentazione. Valentina, il tema del doppio. Buongiorno, il tema del doppio. Buongiorno. Ben ritrovati. Il tema del doppio, ho pensato di affrontarlo attraverso, più che un libro, attraverso la vita di un autore, quella di Salinger per l'appunto. Certo. E in questo caso attraverso la quello che era accaduto a Salinger nella sua vita. Attraverso la Seconda Guerra Mondiale subì un trauma così forte che, tornando negli Stati Uniti, abbiamo perso Jerome, David, e abbiamo scoperto l'autore, il grande autore Salinger. E attraverso la letteratura ha creato degli altri personaggi, a partire da Holden fino a tutta la famiglia Glass, in cui riversava parti di se stesso per dar loro una possibilità di vita differente. Certo, certo, è importante questo aspetto immaginifico, e mi collego appunto a questa prima presentazione. Come voi ben sapete, ogni volta che facciamo lo scambio dei gagliardetti, no, che c'è la presenza all'interno o dello Special Twice o del Breakfast Club, arriva sempre il regalo a 42 la risposta, libro del mese o fra i libri del mese selezionati appunto per quanto riguarda la redazione culturale in ambito letterario, lo scrittore Manuel Carrère, scrittore francese. Nel 93 scrive questa biografia dedicata a Philip K. Dick. Si diceva di un immaginario doppio, no? Beh, Philip K. Dick, oltre a essere questo grande genio molto introverso, soffre moltissimo della mancanza e del senso di colpa che ha nei confronti di una sorellina che perderà la gemellina, la perde perché la mamma purtroppo non ha possibilità di nutrire entrambi, proprio per una questione così, mancanza di sostanza. Lui si sentirà incolpato di tutto ciò, si sente egoista, si sente di aver rubato la sostanza vitale, no? E quindi anche per questo sarà nel suo mondo, sarà sempre rinchiuso in queste scatole che lui si crea, e si inventerà anche dei mondi immaginari fino alla fine della sua vita, dove lui non vivrà un vero e proprio transfer che lo porterà a una sorta di pazzia, si può dire. Grandissimo scrittore, rivive nelle parole di Emmanuel Carrère, che lo ricordiamo per Limonov, Il Regno, un libro del 2014-2015, un capolavoro assoluto. In questo caso una biografia romanzata, quella di Philip K. Dick, con questa bellissima copertina, fra l'altro questo disegno splendido dove la mente si perde in un vortice sensazionale, e l'idea del doppio immaginario, immaginifico, come stavi dicendo tu, qui ne è veramente protagonista. Quindi ecco, questo abbiamo anche l'omaggio, vedi, per quanto riguarda, non state perdendo tempo, ecco. Assolutamente, assolutamente, è un libro da leggere. Sì, sono molto curiosa. Sì, assolutamente, dopo poi magari lo condividete un po' alla volta, vedi. E abbiamo, possiamo andare in musica? Sì, facciamo due chiacchiere ancora, facciamo lo stacco musicale, no? Perché sennò dopo annoiamo poi troppo, e non dimentichiamo poi che dobbiamo completare il terzetto, ma abbiamo anche tutta la mezz'ora successiva da stare assieme. Ascoltiamo Scratches, lui è un chitarrista italo-tedesco, Charlie Antolini, e ci troviamo tra pochissimo, sempre su queste frequenze. We'll be right back. po' cocktail music, un po' lounge, anche se non mi piace questo termine perché non vuol dire assolutamente nulla. Allora te lo dico io, è musica d'ascensore, così mi frusti. Elevator music. Scossa. Sì, sì, bastone elettrico. Electroshock. Sì, sì. Esattamente così, tornando in diretta a Radio Città Fugico, oggi lo scambio dei Gagliardetti e le due realtà letterarie che si uniscono con 42 La Risposta, Salinger e anche il Breakfast Club, se vogliamo con il Voltiamo Pagina, si ritrovano in campo neutro, lo Special Twice. Lo Special Twice, devo dire che oggi avete solamente affrontato la prima mezz'ora, adesso ci sarà lo stacco pubblicitario e poi arriverà il pezzo forte che ovviamente dovrete essere sempre voi a gestire la puntata, sì, quindi poi adesso preparatevi, adesso poi Monica. Esatto, Camonica, poi apriremo la porta facile per far circolare un po' l'aria, così vi facciamo respirare visto che insomma nello studio un po' si sta stretti e noi torniamo colpa tra tua, poco, colpa mia, colpa beh, tua, cioè tu colpa. Corri, ti stai sottigliando, io invece continuo a nutrire l'anima come dicevamo prima. Adesso ti raggiungo, non ti preoccupare. Mi raggiungi? Va bene, raggiungeteci anche voi dopo la pubblicità. Vem que é dia de ti, não sai, vai com a mão, seu amar. Não vem Rio de Janeiro de guerra, sai, o trabalho de guerra. Não tem capoeira que bom, não cai, se um dia de cai, cai bem. Birimbau, birimbau. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter tica de amor, tristeza acabará. Birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau, birimbau. Pau, colonna sonora, ti è piaciuta Elisa? Lo stacchetto finale, sì, stavamo tutti ballando, paura. Sì, sì, un pochino sì. Pensa che è una colonna sonora da un film peruviano, chi la canta Bessa 70, non è l'età indubbiamente, sentendo questa voce meravigliosa, però è un rare group, ripresa dalla Crippled Hot Dick Box, una label che... Quella che hai trovato sì, nel mondo, esatto, Wonderwall of William, cioè sì. Alice cade nella tana del bianconiglio, lui ha una stanza con tutti i suoi vinili, la raccolta infinita di dischi e lui cade lì dentro. Ogni tanto ne perdo qualcuno, lo ritrovo, lo metto in playlist. Esatto, vedi, come oggi. Oggi è capitato esattamente così. Berimbau, uno standard, permettetemi il termine, della musica brasiliana, della bossa, del grandissimo Moraes, autore della Ragazza di Ipanema e di tanti altri brani stupendi. Abbiamo messo anche un po' di realtà tropicali, magari ci aiutano con la stagione. Con la stagione? Speriamo. Noi siamo in attesa, come attendiamo le novità di questo Special Twice in merito alla tematica doppia, esatto, in duplice copia. Oggi vedremo di 42 La Risposta, che sono oggi i nostri ospiti e faranno loro la puntata, hanno questo impegno non da poco, però insomma sicuramente speriamo intanto di avervi messo un po' a vostro agio. Sì, moltissimo. Cioè, sì, della serie ho una pistola puntata alla testa. Non ti posso contraddire. Non so se tu hai visto come hanno affrontato le nostre domande. Allora, iniziano così: io ho preparato. Esatto. Io si ho sono preparate molto bene. Io ho preparato, vabbè, intanto, giustamente loro danno risposte. Noi mano a mano facciamo domande, poi, come nella enigmistica, vediamo se riusciamo a trovare, no, le parole che riescono a combaciare, certo, tra di il loro. Il filo conduttore che è il doppio, lo Special Twice, i gemelli. Il mese dei gemelli. Il mese dei gemelli, tra l'altro, noi. Quindi probabilmente capiterà anche una puntata dedicata ai grandi artisti di questo segno, che non sono pochi. No, perché è un segno d'artisti, poi il gemello, così dicono. Io non ne so nulla. No. Io e te non ne sappiamo nulla. Non ne sappiamo nulla. Assolutamente. Perfetto, nulla. Benissimo. Allora, lasciamo la parola alle nostre ospiti. Rientriamo con Monica, che nella mezz'ora precedente è rimasta in panchina e quindi rientrando invece da protagonista in questa seconda parte, parlando di un minore della letteratura, un personaggio così, una un meteora, come direbbe tale Dostoevskij. Sì, ho scelto uno dei minori, diciamo così, che non ha per niente condizionato la letteratura successiva e contemporanea a lui. Il romanzo che ho scelto è Il Sosia, era del 1846. Ovviamente Dostoevskij in tutta la sua opera non fa altro che indagare i meandri dell'animo umano, le sue contraddizioni, e le porta poi in superficie, le mette in luce. E questo è un romanzo particolare, però, proprio perché del 1846, quindi un momento in cui Freud non aveva sfondato, non ci aveva ancora condizionato, in qualche modo anche rovinato la vita. Senza questo di lui, lo dice tua madre intanto. Lo dice mia madre. Certe volte penso, ma se ci fosse stato Freud durante l'infanzia di Leopardi, avremmo Leopardi? Avremmo Leopardi? No, assolutamente no. Poi c'è stato Fagli. Lo ringraziamo per tante cose, per altre, insomma, andava bene anche così. Il Sosia è un romanzo in cui viene indagato proprio il tema del doppio, e in un modo particolare si rifà un po' a una tematica che era nota ai classici, che era nota per esempio a Plauto, però ovviamente portandolo nel moderno. È una storia che sembra semplice raccontata così. C'è una persona, il protagonista, che è Goliatkin, che a un certo punto passa tutta la sua vita a collezionare frustrazioni di continuo, perché non si sente accettato nella società in cui vive, sente che questa società non gli può offrire nessuna realizzazione personale. A un certo punto gli si para davanti il suo sosia, che è perfettamente uguale a lui nell'aspetto, ma non nel carattere, non nella personalità, perché tutto ciò che lui vorrebbe essere e che invece non è, è spregiudicato, è ironico, sarcastico, sicuro di sé, cosa che invece appunto non è il nostro protagonista, anche perché poi è un funzionario statale, forse, esatto, anche il lavoro non lo aiuta particolarmente, non lo aiuta, noi insomma ne sappiamo qualcosa, un po' fantoziano, un po' fantoziano, sì sì, con la nuvoletta, gli manca un po' la nuvoletta sulla testa, ma questa nuvoletta in qualche modo arriva, perché nel momento in cui fa la comparsa il sosia gliene succedono di ogni, una disavventura dietro l'altra, tant'è che lui pensa che l'unica soluzione per potersi riappropriare della sua vita e avere frustrazioni sì, ma disavventure no, è quella di inseguire il sosia ed eliminarlo. Ma colpo di scena finale, si rende conto che il sosia non è il sosia, ma è frutto di un'allucinazione della mente. Quindi è lui che si vede dall'esterno. Esatto, il suo vedere prima di Pirandello, prima dell'alter ego, non so, di Svevo, Zeno Cosini col suo alter ego Guido Speyer, che anche lì rappresenta tutto ciò che Zeno vorrebbe essere e che non è. E prima di Freud, noi assistiamo appunto al concretizzarsi di un'allucinazione mentale che è dovuta ad uno stato psicologico nel quale il protagonista arriva a toccare la malattia. E quindi non se ne rende conto, però il fatto di voler così tanto realizzarsi, perché alla fine lui quando guarda se stesso dall'esterno vede ciò che vorrebbe essere, esatto, quindi è una continua frustrazione anche questa. Esatto, ma è proprio questa la cosa bella, che nel mondo di oggi siamo abituati comunque, la letteratura, al cinema, a questo tema, il doppio che ti viene da dentro. Cioè è più una proiezione di una malattia che non qualcosa di reale. Pensa un po' a Fight Club, però senza il nostro amico Dostoevsky, io non lo so. Chissà. Beh, ha lasciato un'eredità incredibile, poi soprattutto un modo di ragionare completamente diverso. Io fuori dagli schemi, sì, più totali. Io dico sempre che ci vorrebbero 7 vite per approfondire tutta la letteratura di Dostoevsky. Dico la verità, ci ho provato e con grande soddisfazione, tra l'altro, perché ti porta a pensare anche alla fine chi è il progressista e chi è il conservatore, perché sì, ti dà uno specchio delle cose completamente ribaltato, ed è anche difficile andare in contrasto con lui proprio per questa finezza, per questa capacità di intelletto molto fine e molto aperta allo stesso tempo. Tu stavi facendo un paragone con il sosia tratto dal romanzo omonimo del 1845, a sua volta mi è venuto in mente Memorie dal sottosuolo, che scrive 10 anni dopo. Esatto. Memorie dal sottosuolo a me ha fatto venire in mente, in quello che tu stavi raccontando, poi mi è tornato in mente perché a sua volta al sosia l'ho letto anch'io, che il personaggio di Memorie dal sottosuolo nella parte finale darà una spallata apposta a questo generale per provocarlo, ed è probabile che in quella spallata lui rivede se stesso, che cerca di provocare, di scuotere, ma che non viene assolutamente considerato, e per lui sarà ancora un'umiliazione ulteriore, no? E anche qui ci può essere un parallelismo, una, come si può dire, un rispecchiare della propria personalità all'interno di una sorta di antagonista. Quindi di immagini dostoevskiane ce ne sono millanta. Bello, grazie. Grazie a te. No, beh, intanto noi abbiamo anche un altro, non dico obiettivo, ma un suggerimento, quello di invitare la lettura, no? Beh, intanto non solo quando piove, perché no, abbiamo detto appunto all'inizio che il weekend si prospetta non dei migliori, però sicuramente, visto che il tempo è sempre quello che è, almeno riusciamo a ritagliarci prima di andare a dormire, o per l'estate che c'è un pochino più di tempo per chi riesce ad andare in vacanza, quel tempo per una lettura che da anni magari ci si è messi in testa di leggere, e poi magari si cade nelle letture più brevi perché si pensa di non aver mai tempo. In realtà si trova, se si vuole. Ma quante chiacchiere che abbiamo fatto, mamma mia, forse meglio ascoltare. Dobbiamo mettere un po' di musica. Sì, facciamo sì, così, vai. Gustav Brom Orchestra, il brano si chiama Bounty. Bello che abbiamo spaziato nella letteratura con le ragazze di 42 la risposta e non è finita, anzi siamo arrivati ai grandi classici, quindi abbiamo avuto classici per quanto riguarda la musica con Sara, poi un approfondimento sull'idea del doppio insieme a Valentina e poi un classico della letteratura, Dostoevskij, insieme a Monica. Noi possiamo tranquillamente andare a casa. Sì, ma infatti perché... guardate ragazze, adesso vi lasciamo i microfoni perché appunto c'è il terrore nei vostri occhi, ma come dicevo prima, Sara, insomma, no, se state vostro agio, giusto? Certo, perché giusto. No. No, vedi come più sciolta possiamo spodestare. Guarda, non vediamo l'ora, guarda, quindi tranquilla che sicuramente la porta è sempre aperta. Valentina è la più taciturna, direi di passare il microfono a Vale. Qualche citazione a proposito del doppio, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ne abbiamo tanti in ambito letterario, eh? Quali possiamo, te ne vengano in mente altri? Io ci sto pensando, A livello per esempio di graphic novel c'è, cioè Asterios Polyp, bellissimo, di Mazzucchelli. Zucchelli, ci pensavo prima quando parlavi di Philip Dick, perché sì, anche lì la storia alla fine è narrata dal gemello che non è sopravvissuto e racconta appunto la vita di Asterios, e anche quella è una bella storia d'amore, sì, e di ricerca di se stessi attraverso anche la perdita, molto bello. Infatti citando il libro che abbiamo presentato velocemente prima, Io sono vivo, voi siete morti, Emmanuel Carrer con la biografia di Philip K. Dick, c'è una perdita, che è la perdita della gemellina piccolissima, lui si sente in colpa, i genitori addirittura non faranno nulla per tirarlo fuori da questo senso di colpa, anzi pensano che la sua voglia di stare da solo, il suo isolamento, sia semplicemente un aspetto caratteriale che prima o poi passerà, mentre invece sarà un turbine, un vortice che lo renderà artisticamente veramente molto molto fecondo, ma allo stesso tempo, rispetto alla società dell'epoca, completamente avulso. Un grandissimo artista, un grandissimo scrittore, un grandissimo artista e un grandissimo scrittore anche Emmanuel Carrère. Poi fra pochissimo magari presentiamo anche questo capolavoro assoluto di realismo magico letterario, Angela Carter, Figlie sagge, edito da Fazzi. Fazzi, tra l'altro, sapete ragazze che io sto facendo una sorta di collana con le piccole e medie, ma soprattutto indipendenti case editrici all'interno del Voltiamo Pagina, e sto facendo delle scoperte straordinarie, cioè Fazzi, editore, riprende tutta la letteratura femminile del Novecento inglese, ed è un mondo infinito, sto scoprendo delle scrittrici veramente molto molto interessanti, Hilary Mantel, Elizabeth Jane Howard, la stessa Angela Carter, di cui magari parleremo tra pochissimo. Vai, no, dicevano, non è un caso che questa tematica del doppio tra 800 e 900 sbocci e fiorire un po' un cielo aperto per quanto riguarda grandi dei romanzi, un po' perché si aprono un pochino di più al pubblico, poi anche qui la borghesia si allarga e quindi da un'altra parte abbiamo la personalità che deve mantenere un certo decoro, e quindi comunque la personalità si sdoppia ancora di più perché devi mantenere questa plomb in pubblico, e poi nel privato si lasciavano, insomma, ovviamente le parti più trasgressive, primitive, più villesche vogliamo, sì, chiamarle, sì, così, ma sì però insomma sicuramente il doppio in questo senso andava a scindere la personalità. No, di netto, stavo pensando anche a uno scrittore austriaco che poi fa da Schindler. Doppio, esatto, Schindler, che fa da doppio a Freud, ciò che Freud è stato per la psicanalisi lui è stato per la letteratura, in Doppio sogno, da cui poi è stato tratto Eyes Wide Shut. Esatto, questa doppia vita pubblica, che però nel privato, nel caso del romanzo, poi nel sogno privato, perché neanche nella vita privata a un borghese era concesso all'epoca di darsi alla pazza gioia, diciamo così, per cui tutto avviene a livello di un sogno. Quindi anche qui Freud a livello di, no, dei suoi sogni, apriamo un cielo aperto anche qui. Volevamo fare qualche citazione letteraria leggendo anche qualcosa, più tardi magari facciamo uno stacco musicale, Space Boogaloo, sì. Poi torniamo in diretta con le ragazze di 42 la risposta allo Special Twice per approfondire i contenuti del libro Just Kids. Thank you. nasce da una fotografia, questo libro che abbiamo portato in diretta con 42 La Risposta, nasce da un momento di villeggiatura, tra virgolette, tra una grandissima Patti Smith insieme Robert Mapplethorpe. Ah, beh, allora direi di proseguire a questo punto con il piccolo approfondimento letterario dalla viva voce di Sara, che ci delizierà di una piccola parte di lettura di tutto ciò. Anzi, abbassiamo un attimo, creiamo l'atmosfera, vai. Allora, innanzitutto volevo dire che la lettura nasce da questi altri mondi che si aprono leggendo questa biografia, questa storia di un amore, di un'amicizia. Altri mondi, anche perché, come in tutte le biografie, Patti Smith cita tantissime persone che ha incrociato e che hanno influenzato la sua carriera, la sua formazione, e quindi c'era un detto che diceva: un libro ne apre altri, e effettivamente questo libro ne apre tanti. Leggo una parte in cui Patti Smith descrive il Chelsea Hotel, proprio per avere un assaggio di quello che doveva essere il mondo newyorkese fra gli anni 70, alla fine degli anni 70, diciamo. Il Chelsea era una casa di bambole ai confini della realtà, con un centinaio di stanze, ciascuna un piccolo universo. Io passeggiavo per i corridoi in cerca di spettri, vivi o morti. Tutti avevano qualcosa da offrire, nessuno sembrava avere denaro, perfino la gente di successo dava l'impressione di possedere a malapena ciò che bastava per vivere come stravaganti barboni. Amavo quel posto, la sua eleganza trasandata e quella sua storia che si teneva così stretta. Alcune voci raccontavano che bauli di Oscar Wilde languissero nelle stive del seminterrato, che spesso finiva allagato. Qui Dylan Thomas, sommerso da poesie e alcol, aveva trascorso le sue ultime ore. Thomas Wolfe si era fatto strada a fatica fra le centinaia di pagine del manoscritto che aveva dato forma a Non puoi tornare a casa. Bob Dylan aveva composto Sad Eyed Lady of Lowlands sul nostro pianoforte e si diceva che Eddie Sedgwick, sotto l'effetto dello speed, avesse dato fuoco alla camera mentre si appiccicava, spesse ciglia finte, al lume di candela. Il sax di Cannonball Adderley ci riaccompagna in diretta insieme al pianoforte di Bill Evans e la voce di Sara. Grazie per la bellissima lettura. Grazie a voi. Molto prendete suggestivo. Just Kids. Sì, e leggetelo. E leggetelo soprattutto. Beh, ragazze, noi siamo entusiasti di questa puntata, siamo felicissimi di avervi venuto con noi, quindi insomma speriamo di riavervi presto prima dell'inizio. Sì, non aspettiamo giugno 2017. Esatto, perché una volta all'anno, quando si possono ripetere spesso queste belle puntate. Certo. Allora, intanto noi possiamo ricordare la vostra pagina Facebook, così chi si è incuriosito e non poco oggi può cercare le vostre informazioni anche quando andrà in onda la vostra puntata. Vale. Ah, su Facebook 42 al numero La Risposta. Andiamo in onda il martedì alle ore 13. Salinger lo troviamo sempre nello stesso contesto? No, Simply Salinger ha un'altra pagina. Salinger. Esattamente, sì. Andiamo a cercare anche questo per... E voi a volte mettete anche i podcast, mi sembra. Sì, i podcast vengono pubblicati, insomma, dopo la messa in onda su Fujiko, perché ci mancherebbe altro noi. voglio dire, dopo poi rischiamo l'incidente diplomatico. Vogliamo andare prima, vogliamo uscire prima. No. No. disco della settimana, intanto tra pochissimo a Jazz Live, il format che dalle 11.30 alle 12.30 vi porta l'osservatorio sul jazz a casa vostra, presentazione del disco della settimana, presentazione di due incontri importanti, uno periferico, Zola Jazz and Wine a Zola Predosa, quell'altro invece più centrale, più vicino a noi, alla Montagnola, per il percorso estivo in ambito jazzistico, entrambi presentati e con la direzione artistica del nostro Piero Odorici, che sarà in studio con noi per questa puntata del Jazz Live. Noi, Elisa, auguriamo buon weekend. Buon weekend, e anzi, visto che ci sono, colgo l'occasione perché dal 2 al 5 a Pennabilli, che è nelle campagne riminesi, c'è la festa degli artisti. Speriamo, incrociamo le dita, che non piova per tutto il tempo, però cosa chi state può aspettando? Vada. Più artiste di voi, voglio dire. È noi. Bellissimo un posticino arroccato sulla Montagnola, un borgo d'altri tempi, bella, artisti in tutte le piazze, quindi se riuscite accorrete gente. Sara, Valentina, Monica, grazie infinite. Grazie, e alla a prossima. Voi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, sono Andrea Camilleri e anch'io ascolto su Radio Città Fucico lo Special Twice, tra un bacchetto e l'altro.